nessun timor, incontra in casera col sole, e l'ultima sua notte di libertà, domani prende moglie, già la principessa Fedora Romazzov, quella vedova fretta, ricca, passabilmente 14 milioni, salute, a tempo il compiuto scarico. Le donnine, le carte, le bottiglie, i cavalli, niente. Si stava a festi, si stava a festi, che non si assorbi. Al padrone, alla sposa, alla bove, a lui. Silenzio, ricapitato, no. La principessa su sveglia di padrone. Quell'uomo orrendo avea lasciato sulla neve.

un'altra volta quell'uomo vedesti il suo nome. Non lamento. Vicino provo, sforzati, cerca. Cerca. Cerca. Non trovo. Cerca.

Russia. Partito. A mezzanotte. Partito domani. Noi ci rivedremo allora. Entro bordo. Addio. Addio. Risponde, sì, ora